Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. I progetti col marchio Smart City sono sempre più numerosi in Italia, ma nel mare magnum delle buone intenzioni sono pochi i progetti che, una volta emersi, danno la sensazione, insomma, di riuscire a rimanere a galla anche in seguito. Ma un progetto iniziato e abbandonato significa non solo un fallimento per l'amministrazione che lo ha lanciato, ma anche uno spreco, anche se magari limitato, di energie e di denaro che avrebbero potuto naturalmente essere impegnate su altri progetti con migliori possibilità di successo. La consapevolezza che la situazione è questa ormai però è abbastanza diffusa. Lo ha capito l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, lo hanno capito anche le banche. Per uscirne, una iniziativa alla quale possiamo guardare con ottimismo è quella dell'ENEA, che insieme a Confindustria e a RSE, Ricerca Sistema Elettrico, e in collaborazione proprio con ANCI e ABI, quindi l'Associazione Bancaria Italiana, ha costituito una task force per cercare di definire una metodologia per la valutazione dei progetti Smart City. Ne parliamo con Mauro Annunziato, che è coordinatore delle tecnologie innovative per l'ecoindustria ed è subcoordinatore per quanto riguarda il programma congiunto europeo sulle Smart City. Mauro Annunziato, che torna a trovarci questa sera. Buonasera Annunziato. Buonasera Melis. Dunque, qual è l'obiettivo allora esattamente di questa task force? A che cosa è che volete arrivare? Dunque, assolutamente la sua premessa è corretta, ci troviamo quasi di fronte a una situazione di evoluzione biologica, cioè si impara dagli errori, però il problema è che ogni mortalità di un progetto ha un costo elevato per la società, quindi occorre trovare, come dire, delle chiavi di lettura per valutare i progetti. E soprattutto un problema, ecco, di finanziamento, vero? Sì, dunque, a volte è un problema di finanziamento, ma diciamo in una prospettiva più ampia è un problema di collocare il progetto nella sua dimensione giusta, cioè capire se magari è un progetto che ha delle grandi prospettive, ma si situa un po' più là negli anni, tempo, perché le tecnologie non sono mature, ma ha prospettive importanti, oppure se è un progetto invece che già è maturo e quindi si può applicare. La differenza è che nel primo caso si deve giocare in un contesto più di ricerca e sviluppo e la seconda invece ha bisogno di una dimostrazione, quindi andare in campo in situazioni urbane. Il problema è difficile perché non è diverso dall'impostazione classica in cui si doveva valutare una tecnologia per i risultati che produceva. Una lampadina a risparmio energetico si vede che fa risparmiare un tot. Quando bisogna valutare invece delle ricadute che a volte sono addirittura sociali, è tutto molto più complicato, no? Cioè è una questione di costi-benefici che non è chiara in molte operazioni oggi. Il rapporto costo-benefici è difficile perché sono diversi gli attori che intervengono nella Smart City, cioè parliamo non solo delle aziende ma della municipalità, cioè della città, parliamo del cittadino, parliamo dell'amministrazione centrale e parliamo naturalmente del sistema finanziario che poi deve sostenere questi investimenti. Ognuno di questi attori ha una sua metrica, cioè ha un suo modo di vedere il progetto e se non si riesce a trovare un linguaggio comune questi progetti tipicamente falliscono. Quindi il problema adesso è cercare di creare una metodologia quantitativa per valutare questi parametri. Cosa significa? Significa che alcuni di questi parametri di valutazione serviranno per esempio a rispecchiare il punto di vista per esempio delle aziende, le quali devono trovare naturalmente un sistema competitivo nell'affermare determinate tecnologie, ma ci sono dei valori sociali dal punto di vista della città, è chiaro che conta molto il valore sociale e qui occorrono degli indicatori che definiscono ad esempio quante persone vengono raggiunte da quel servizio smart, quante partecipano e poi ci sono aspetti naturalmente relativi agli aspetti energetici ambientali, ad esempio quanta energia risparmio, quanta CO2 evito ed infine ci sono aspetti molto significativi che sono quelli dal punto di vista del sistema finanziario, ad esempio posso immaginare quali siano i tempi di ritorno degli investimenti e una dimensione piuttosto nuova che si sta giocando, che è entrata in questo task force dove partecipano oltre ad ABI anche la Cassa Depositi e Prestiti e la SACE, è il problema del rischio, cioè come si valuta il rischio di un progetto, cioè quel progetto a quali rischi è sottoposto nel suo sviluppo. Quindi occorre valutare tutti questi indicatori e quindi occorre dei dati tavoli in cui vengono rappresentate tutte le componenti, quelle industriali, quelle municipali, quelle del sistema finanziario e quelle della ricerca, perché sono quelle che possono permettere di collocare una scattare una fotografia che deve essere multidimensionale, insomma, presa da tanti punti diversi. Ecco, concretamente, in pratica, quale sarà il prodotto finale? Saranno dei progetti tipo, qualcosa di questo genere? Dunque, quello che si sta facendo è cercare di capire, guardando tutti i progetti che stanno emergendo sia a livello nazionale che a livello internazionale, cercare di raggruppare dei domini progettuali, cioè dei contesti dove il progetto si sviluppa, ad esempio l'area della mobilità, oppure l'area dell'illuminazione pubblica, oppure l'area degli edifici, e in queste aree cercare di definire alcuni progetti tipo, cioè qual è il progetto tipo, e per ognuno di questi fare una sorta di analisi, cioè il progetto tipo costi e benefici sostanziali, territoriale e così via, fino ad arrivare a calcolare tutti quegli indicatori che sono stati sviluppati su ognuno di queste tipologie. Questo dà una fotografia, e da questa fotografia emerge che, come dire, ci sono degli insiemi di progetti che potrebbero essere, tra virgolette, consigliati alle città, perché possono avere dei ritorni già immediati, sono maturi, e altri invece che vengono consigliati magari su città più grandi. È importante, ad esempio, la scala della città. Mi sentirei di andare a consigliare una città grande determinati progetti e una città piccola progetti diversi, quindi non sempre questi progetti vanno bene e dipendono anche dalla vocazione stessa della città. Certo. Però tutto questo è importante farlo non su una base qualitativa, ma su una base quantitativa. Ma la piccola amministrazione, per intendersi il comune, quindi che cosa potrà fare? Potrà prendere dal sito dell'Enea un domani uno di questi progetti tipo e con questo andare in banca e dire: noi vorremmo fare questa roba. Guardate che se andate a vedere questo documento, da qui si possono estrapolare i benefici che ci possiamo attendere. È qualcosa del genere? Qualcosa del genere, non solo, ma in funzione del tipo di progetto che si sceglie, si suggerisce poi qual è la strada per portarlo in porto, per portare in porto il finanziamento, perché ogni insieme di questo tipo ha una logica di finanziamento completamente diversa. Va bene, grazie allora Mauro Annunziato. Grazie Melis, grazie a lei. È tutto, a lunedì.